casa insieme a te. L'oro d'oggio segna l'ora vera, da 3 anni in qua. Con un passo felino in cucina ti preparo avocado e te. Le tue uova con quella camicia che hai preso a me. Adesso prova a farmi una centrifuga con mango, mandorle, carote e creme. Le crepe con la nocciola biologica, yogurt, banana e sel. Sono stanco delle merendine e di succhi non bevo più. Sono attratto dal pane bianco, che vizio ho. Lo so, per questo preparerò la colazione romantica. Posso farlo ora, posso farlo ora, sì. Mirtilli, more, frutti di stagione. La tavola imbandita, eccoti qua. Mi guardi con la faccia da probabilità. Ho fatto tutto bene. Sai che voglio vederti felice. Con la pancia non gioco più. Sono attratto dal pane bianco. Che vizio ho. Che vizio ho. Lo so, per questo preparerò la colazione romantica.